Yeah, songs about love and happiness. Oh, oh yeah. Se tu dovessi tornare da lei, ma potessi ancora restare tra noi, sembra sempre speciale, lo sai. Se io ti chiedessi di stare con me nella notte più buia, momento io e te, soli senza rimpianto, oh yeah. Io cercavo libertà e adesso eccomi in ginocchio qui per te. Forse sembro misera, ma fuori nevica e così. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, dato come si deve, che si perde in un attimo e poi non c'è più. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, bianco come la neve, che si scioglie in un attimo e poi non c'è più. Da un po' lascio tutto in sospeso con te, non mi chiedere di fare il salto perché sono il sogno di un altro, oh yeah. Se io ti chiedessi di stare con me nella notte più buia, momento io e te, soli senza rimpianto, oh yeah. Io cercavo libertà e adesso eccomi in ginocchio qui per te. Forse sembro misera, ma fuori nevica e così. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, dato come si deve, che si perde in un attimo e poi non c'è più. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, bianco come la neve, che si scioglie in un attimo e poi non c'è più. Yeah, love and happiness. A Milano non c'è il mare, il reggae in minore. Un momento solo. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, dato come si deve, che si perde in un attimo e poi non c'è più. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, oh, oh, oh. Bianco come la neve, che si scioglie.